Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Sarebbe ipocrita negarlo. È vero che forse in questi primi mesi abbiamo avuto qualche difficoltà, tuttavia queste difficoltà ci hanno aiutato a crescere, perché vedete, le difficoltà o abbattono o aiutano a crescere. Ecco, noi forse in questi, e voi lo sapete bene, in questi tre mesi abbiamo avuto modo di crescere, di rafforzare il gruppo e di imparare. Abemus giuntam, care ascoltatrici, cari ascoltatori, si è completata dunque la giunta romana. Avete sentito la sindaca Raggi, che oggi ha presentato i due assessori che mancavano, quello alle partecipate e soprattutto quello al bilancio. Ha fatto un piccolo mea culpa dicendo: sì, è vero, abbiamo avuto le nostre difficoltà, ma siamo diventati più forti, quindi auguriamo buon lavoro alla giunta della sindaca Raggi per il bene di Roma e dell'Italia. E poi concentriamoci invece poi sul resto, c'è molta politica anche oggi. Parleremo però anche dell'uragano Matthew, che ha già messo in ginocchio Haiti, sapete, già devastata dal terremoto del 2010 con oltre 200.000 morti, e già l'Unione Europea si sta mobilitando per aiutare, per mandare dei fondi. Anche la direttrice generale, la numero uno del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha detto che il fondo è pronto a dare degli aiuti economici ad Haiti. Intanto sta arrivando in Florida e ci collegheremo quindi direttamente con gli Stati Uniti per capire qual è la situazione. Ci occuperemo anche di questo boom di italiani che se ne vanno all'estero. Perché e come si può frenare questa emigrazione, visto che di solito parliamo di migrazione. Insomma, tanti temi anche stasera qui Effetto Notte. Prima, lo sapete, un quadro della giornata, in modo che siate sempre aggiornati, non possiate dire poi un giorno io non lo sapevo. Quindi, per tutte le notizie, per aggiornarvi, tra poco la sintesi della giornata. E voi, per interagire qui con Effetto Notte, avete sempre due canali privilegiati, che sono la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp e SMS, che è 349-238-6666, 349-238-6666, pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso vi racconto la giornata. Flessibilità, l'Unione Europea apre alle richieste dell'Italia su migranti e sisma. Il commissario Moscovici dice: contro la minaccia populista, sostegno a Renzi. L'uragano Matthew, Haiti in ginocchio, si mobilita anche l'Unione Europea, allerta anche negli Stati Uniti per oltre 8 milioni di persone. Obama dichiara lo stato d'emergenza in Florida. Siria, allarme dell'organizzazione umanitaria Oxfam: Aleppo muore, senza acqua 1,5 milioni di civili, forte rischio di malattie per l'acqua contaminata. Politica italiana, completata la giunta romana 5 Stelle, e Renzi a Torino ribadisce: il referendum è l'ultima occasione per cambiare il paese. Rapporto Migrantes: sempre più italiani lasciano il bel paese per cercare fortuna all'estero, specie in Germania, un terzo sono giovani. Aggressione con l'acido, tolto il figlio alla coppia condannata, il Tribunale per i minori di Milano ne ha dichiarato lo stato di adottabilità. Lite in una scuola media, 13enne accoltellato a Napoli da un compagno di classe. Musica: i Rolling Stones in uscita il 2 dicembre con un nuovo disco dopo 10 anni. E per il calcio, a Torino, la nazionale in campo contro la Spagna per le qualificazioni ai mondiali. E partiamo quindi dalle aperture dell'Unione Europea all'Italia sul fronte della flessibilità. We said we would be really ready to consider. Questo è il commissario agli affari economici Moscovici, che ha detto che la Commissione europea apre per la flessibilità, per la crisi dei migranti, dei rifugiati, per un terremoto, per un paese che soffre attacchi terroristici. Si tratta di flessibilità precise, limitate e chiaramente spiegate. Così ha detto a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale a Washington il commissario Moscovici. E poi l'uragano Matthew, che ha già messo, appunto, vi dicevo, in ginocchio Haiti, paese già devastato dal terremoto del 2010. L'UNICEF parla di scenario apocalittico: oltre al momento a più di un centinaio di morti, ci sarebbero già 522.000 bambini colpiti dall'uragano nel sud del paese, e già si registrano casi gravi di colera, dengue e zika. L'Unione Europea si sta mobilitando per aiuti economici. Intanto Obama dichiara lo stato d'emergenza in Florida, poche ore dall'arrivo dell'uragano, e noi, come vi dicevo, ci collegheremo più tardi qui Effetto Notte con gli Stati Uniti. Altro fronte di devastazione, non per cause naturali: la Siria, con l'allarme dell'organizzazione umanitaria Oxfam, che dice da oltre 5 giorni ad Aleppo oltre 1,5 milioni di persone sono senza acqua, afferma l'organizzazione, sottolineando che per questo adesso uno dei rischi principali è che i civili contraggano malattie trasmesse attraverso l'acqua contaminata. Siamo alla politica italiana, ancora polemiche politiche sul referendum del 4 dicembre dopo il ricorso dei 5 Stelle e Sinistra Italiana. Arriverà non prima della metà di ottobre la decisione del TAR del Lazio sul ricorso presentato da Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana contro il testo del quesito del referendum definito uno spot ingannevole per il sì. L'iniziativa delle opposizioni è bocciata tuttavia dalla maggioranza. Il quesito, ricordano dal PD, è il testo della riforma su cui entrambi i fronti hanno già raccolto le firme. Così la senatrice Finocchiaro. Secondo me è strumentale ed è anche inammissibile, nel senso che non c'è una competenza del TAR, ma questa è una cosa che deciderà il TAR, per carità. La Cassazione non avrebbe accettato le nostre firme se non le avessimo presentate su quel testo, replica dal Movimento 5 Stelle Toninelli, che attacca così Renzi. Questo sta cercando di fregare i cittadini italiani mettendolo dei titoli truffa che, se non ti informi, tu cittadino italiano vai a votare sì. Dal centrodestra Parisi si proietta al 4 dicembre. Gli elettori moderati guardano al sì per paura, spiega, ma dobbiamo dimostrare che se vince il no c'è comunque una continuità. Se vince il no, nessuna catastrofe, gli italiani non si faranno ingannare, dice quindi D'Alema, ma il sottosegretario Lotti lo attacca, è accecato da rabbia e odio per una poltroncina mancata. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Insomma, volano stracci e accanto all'azione intentata al TAR del Lazio sul quesito referendario ne pende un'altra, avviata fin dallo scorso giugno di fronte al Tribunale Civile di Milano. L'iter e il contenuto delle due azioni sono un po' diversi, ma la sostanza è analoga, a presentarlo un gruppo di avvocati come cittadini elettori. E anche di referendum a Torino ha parlato il Presidente del Consiglio Renzi, tra gli appuntamenti sotto la mole anche quello con l'Unione degli Industriali. TAR, avatar contro TAR è un meccanismo che non può funzionare. Matteo Renzi, davanti alla platea degli industriali di Torino, parla del peso della burocrazia che appesantisce il paese e spezza così una lancia in favore del sì al referendum, anche se, dice, qui mi sento ben rappresentato. La vittoria del no, secondo Renzi, sarebbe una fregatura e significherebbe buttare via l'ultima occasione per cambiare le cose. Il Presidente del Consiglio torna poi sulla polemica dei decimali in più o meno di crescita del PIL. Se trovate uno che si accontenta dell'1% di crescita, ricoveratelo. E annuncia che l'anno prossimo il G7 dell'industria si farà a Torino. Gli industriali plaudono e il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, ribadisce il sì alla riforma costituzionale del governo. Perché Confindustria appoggia il sì? Perché i destini delle imprese sono legati al destino del paese. Perché siamo stati sempre per il monocameralismo deliberante. La vediamo dal punto di vista economico, prettamente economico. E sappiamo difendere gli interessi dell'industria italiana. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche nel frattempo a Roma, sempre di politica parliamo, dopo mesi di giravolte, di balletti sulle nomine degli assessori, Virginia Raggi, come dicevo all'inizio, arriva in aula. Giulio Cesare, oggi forte di questa squadra, ormai è completo. Questa mattina, di buon mattino, l'Assemblea Capitolina ha presentato i due nuovi assessori. Al bilancio Andrea Mazzillo, alle partecipate Massimo Colomban, li ha introdotti con orgoglio illustrandone meriti e curriculum. Li ringrazia per aver accettato questa difficile sfida per la capitale, parla di una giunta arricchita e sul finale, come avete sentito all'inizio, lascia scivolare un sincero, costruttivo mea culpa. Sarebbe ipocrita negarlo. È vero che forse in questi primi mesi abbiamo avuto qualche difficoltà, tuttavia queste difficoltà ci hanno aiutato a crescere, perché vedete, le difficoltà o abbattono o aiutano a crescere. Ecco, noi forse in questi, e voi lo sapete bene, in questi tre mesi abbiamo avuto modo di crescere, di rafforzare il gruppo e di imparare. Il rapporto Migrantes, ora sui dati relativi ai giovani in fuga dall'Italia, soprattutto giovani ma non solo, anche Renzi e Mattarella hanno espresso preoccupazione. Destinazione Europa. In prima fila i giovani, alla ricerca di opportunità. Impennata dei numeri di espatriati italiani e tra i 107.529 connazionali contati dalla Fondazione Migrantes, che nel 2015 hanno scelto di trasferirsi all'estero, la fila più lunga è quella dei giovani, tra i 18 e i 34 anni. Il 36,7% dei cosiddetti millennials ha fatto le valigie negli ultimi 12 mesi, più di 39.000, con una mobilità in itinere che osserva il rapporto italiani nel mondo 2016 può modificarsi continuamente perché non si basa su un progetto migratorio già determinato, ma su opportunità. Gli espatriati però aumentano in tutte le fasce di età. Rispetto all'anno precedente, a iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero sono state 6.232 persone in più, un incremento del 6,2%, e quasi il 70% di loro ha scelto un paese europeo, diretti in Germania e Regno Unito. In più di 16.000 si sono trasferiti in queste mete preferite. Poi sono state scelte da oltre 10.000 italiani anche Svizzera, Svizzera e Francia. Resta maggioritaria l'emigrazione meridionale, ma cresce quella del nord, in testa Lombardia e Veneto. A lasciare l'Italia, soprattutto uomini e persone non sposate, sono circa il 60% i celibi e i nubili che vanno a vivere all'estero. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. Naturalmente poi torneremo su questo rapporto, cercheremo di capire perché questo fenomeno è in crescita. Parliamo adesso di Brexit. Sulla Brexit Merkel avverte Londra: il Regno Unito non potrà avere accesso al mercato comune dell'Unione Europea se non accetterà la libera circolazione delle persone. A proposito di chi va e chi viene, intanto è caos nell'UKIP, il partito che ha guidato il fronte del sì nel referendum di giugno. Uscito vittorioso dal referendum sulla Brexit, l'UKIP non solo non ha ancora un leader, ma i toni al suo interno stanno diventando sempre più accesi, tanto da arrivare allo scontro fisico. Durante una riunione a Strasburgo, Stephen Woolf, candidato a guidare il partito, è stato colpito rischiando un'emorragia cerebrale. Mi rincresce profondamente le parole di Nigel Farage, che, ottenuto il no degli inglesi all'Unione, aveva dato le dimissioni, come Boris Johnson, l'uomo che avrebbe dovuto traghettare il paese fuori dall'Europa. Ora il compito spetta a Theresa May. Voglio dare alle compagnie britanniche la massima libertà all'interno del mercato unico, ma Londra avrà il controllo esclusivo delle frontiere, ha detto la premier britannica. Chiara la risposta di Angela Merkel. L'accesso al mercato comune è condizionato all'accettazione della piena libertà di movimento delle persone, così la cancelliera tedesca. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di nuovo in Italia adesso con la cronaca: il Tribunale per i minorenni di Milano ha dichiarato lo stato di adottabilità del figlio di Martina Levato, Alexander Böcher, la coppia condannata per le aggressioni con l'acido. Adottabilità presso famiglia scelta dal Tribunale di Milano fra quelle idonee all'adozione. I giudici hanno accolto la richiesta della PM dichiarando l'adottabilità appunto del piccolo e sospendendo ogni rapporto tra il bimbo Levato e Böcher, che sono in carcere dal dicembre 2014, già condannati nei due processi sulle aggressioni con l'acido. E poi ancora cronaca, è ancora un femminicidio: un'altra donna è morta per mano dell'ex compagno. Questa volta è successo a Riccione: una cinquantenne di nazionalità moldava è stata strangolata dall'ex, un italiano. Dopo essere scappato, l'uomo è andato a costituirsi dai carabinieri. La donna lascia una figlia di 10 anni. E vicino Bari, un uomo ha picchiato, poi sequestrato l'ex amante tenendola segregata in casa per ore prima che venisse liberata dai carabinieri. È stato arrestato in flagranza di reato, attualmente è in carcere. Ed era gravemente malata Giovanna Salerno, la donna di 48 anni uccisa a Crotone in Calabria dalla figlia 22enne, quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Crotone. Giovanna Salerno, la vittima, a causa della malattia che l'aveva colpita da tempo, era caduta in stato depressivo. E poi la procura di Roma, che ha chiesto al GIP la convalida del fermo di Edward Oprea, il romeno accusato di aver stuprato una cittadina australiana a Roma in zona Colle Oppio, a due passi dal Colosseo. L'interrogatorio di garanzia si terrà tra domani e sabato. L'uomo stava cercando di fuggire all'estero. È una brutta storia, arriva anche da Napoli. Sentiamo. È stato rintracciato intorno alle 16.30 il 14enne che ha coltellato il compagno di scuola nel centro antico di Napoli. Il ragazzo ha ferito al torace l'altro studente di 15 anni che è stato ricoverato in ospedale e ha dovuto subire un intervento chirurgico nel pomeriggio. Non risulta in pericolo di vita e le sue condizioni non sono gravi. Secondo la ricostruzione della polizia, la lite ha avuto inizio da un diverbio nel cortile della scuola per poi sfociare nell'aggressione e l'accoltellamento per strada in via San Biagio dei Librai, generalmente molto frequentata. Al momento il 14enne è stato condotto negli uffici del commissariato Decumani, dove gli agenti hanno ascoltato diversi testimoni, studenti e la preside dell'istituto comprensivo Confalonieri, frequentato dai due ragazzi. Laura Vigiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E adesso una notizia che riguarda le unioni civili. Con sorpresa, il prossimo 8 ottobre due ragazze, Elisabetta e Pamela, celebreranno l'unione civile a Genova, a Palazzo Tursi. Fin qui niente di nuovo. La sorpresa è che ad ufficiare il matrimonio sarà la ministra della difesa Roberta Pinotti in persona. È la prima volta che accade, e soprattutto, come ha fatto sapere la ministra, è un messaggio chiaro rivolto a tutte le forze armate, in particolare modo a chi pensa che sia ancora accettabile, dice, discriminare i gay con la divisa. E poi una notizia di musica che riguarda i Rolling Stones. Dopo 10 anni pubblicano un nuovo album da studio. Il 2 dicembre uscirà Blue and Lonesome, che segna il ritorno della band alle origini e alla loro passione per il blues. È stato registrato a Londra in soli 3 giorni, pensate. E poi per chiudere il calcio, in soli quanti minuti siamo, cosa, Dario? 0-0 con l'Italia in campo? Sì, buonasera da Torino, mezz'ora del primo tempo, ancora 0-0 tra Italia e Spagna, e mi dai la linea proprio nel momento in cui l'Italia purtroppo perde per infortunio Riccardo Montolivo, un contrasto in fase d'attacco con un difensore spagnolo. Montolivo ha avuto la peggio, entra al suo posto Bonaventura, in precedenza la Spagna l'ha sostituito Jordi Alba, a sua volta infortunato con Nacho. Finora in questa prima mezz'ora tanta Spagna con il possesso palla e anche con almeno un paio di buone occasioni, due colpi di testa di Piqué, fortunatamente deboli e centrali e quindi facile preda delle mani di Buffon, ma gli spagnoli ci sono finora superiori in fase di palleggio e controllo palla. L'Italia prova a pungere in contropiede, finora però nessuna occasione per gli azzurri. 31esimo di gioco, vi ripeto, è uscito pochi istanti fa Riccardo Montolivo, al suo posto è entrato Bonaventura, ancora 0-0 a Torino tra Italia e Spagna. Grazie da Luigi da Torino, vediamo se colgono l'occasione più tardi, ci risentiamo naturalmente. Prima di lasciare gli aggiornamenti alla viabilità, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Per esempio c'è chi scrive a proposito del rapporto della Fondazione Migrantes, di cui parleremo tra pochissimo, di questo boom di italiani che se ne vanno all'estero. Antonio dice: cosa c'è da commentare? Se qui non trovi il lavoro per cui hai magari studiato, provi all'estero, non una novità che senza conoscenze e raccomandazioni non trovi posti decenti. E poi anche un altro ascoltatore che dice: Roberta, vanno via perché qui meritocrazia niente, perché è difficile coltivare speranze. Bella e triste questa frase, ci risentiamo tra pochissimo. Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Vi presenta. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Eccoci insieme, Roberta Giordano sempre con voi, quindi avete sentito il riassunto della giornata. Ci sono ascoltatori che scrivono per sentire Effetto Notte e avere il ragguaglio appunto di tutto quello che è successo da Chicago, addirittura dalla Spagna, dalla Germania, dall'Australia, quindi non perdete occasione per ascoltare Effetto Notte e essere aggiornati su tutto. Tra poco cominceremo a entrare come al solito nel cuore degli argomenti. Continuate sulla pagina Facebook di Effetto Notte a scrivere le vostre osservazioni, i vostri commenti, o il numero per WhatsApp e SMS che è 349-238-6666. Per esempio, ancora sul rapporto della Fondazione Migrante, se gli italiani che vanno all'estero, Francesco: mi stupisco di più per gli altri che rimangono. E poi invece un altro ascoltatore, a proposito di Moscovici, il commissario europeo che ha aperto alla flessibilità per quanto riguarda l'Italia e che ha detto sosteniamo Renzi contro il populismo, dice: populismo, se il populismo avesse un connotato negativo non sarebbe forse figlio di quella classe politica che lo ha generato, perché biasimare se stessi? Dunque, questa è la riflessione dell'ascoltatore. Ma adesso vi ricordo i titoli più importanti della giornata e poi cominciamo con gli ospiti. L'Unione Europea apre all'Italia flessibilità per i migranti e per il sisma. Moscovici, l'abbiamo appena detto, sostegno a Renzi contro la minaccia populista, dice. E poi sempre il Presidente del Consiglio Renzi sul referendum dice: l'ultima occasione per cambiare il paese. Scintille tra Lotti e D'Alema, il Movimento 5 Stelle attacca sulla par condicio. Boom di italiani in fuga, 107.000 all'estero, ne parleremo tra pochissimo di questo rapporto migrante. Se poi arriva l'uragano Matthew, stato d'emergenza in Florida, apocalisse ad Haiti, 3 milioni evacuati, già 102 morti. Tolto il figlio alla coppia dell'acido, si può adottare, dice il Tribunale dei Minori, stop ai rapporti con Martina e Alex, la coppia che è in carcere. Poi la sindaca Raggi, che completa la giunta a Roma, ringrazia i romani, dice: abbiamo avuto difficoltà ma siamo cresciuti. E poi litigano nella scuola media, coltellato un tredicenne da un minorenne a Napoli, l'altro volto della città questo. E poi per i Rolling Stone la musica, escono il 2 dicembre con un nuovo album dopo 10 anni, mentre in campo c'è l'Italia contro la Spagna, la nazionale di calcio, e sono sempre 0-0. È il vero motivo per cui dobbiamo rendere questo paese più semplice, per permettere non necessariamente ai ragazzi di non andarsene, ma poi di tornare, ma almeno di avere, se vogliono, della possibilità di tornare. Cioè, parliamoci chiaro, rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, forse più correttamente a 40 o 50 anni fa, dove dal sud si arrivava a Torino per lavorare alla Fiat o in altri luoghi e questo era il fenomeno di migrazione, oggi la migrazione è una migrazione che è innanzitutto europea, quindi non mi stupisce il dato europeo. È fisiologico, c'è uno scambio continuo e tra l'altro ci sono anche diversi ragazzi che noi attraiamo, ma molti meno di quello che potremmo. Perché? Perché noi abbiamo vissuto negli ultimi mesi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, sostanzialmente con un atteggiamento di rassegnazione. Così spiega il Presidente del Consiglio Renzi questo boom di italiani che se ne vanno all'estero, perché parliamo costantemente, no? Anche qui effetto note di emergenza immigrazione, un fenomeno epocale estremamente drammatico, con tanti morti, tanti disperati che fuggono dalle guerre, dalla fame e anche la difficilissima gestione di tutto questo flusso senza fine. Oggi però parliamo di questa piccola grande emergenza emigrazione. Avete sentito, sempre più italiani se ne vanno all'estero, lo rivela il rapporto Italiani nel Mondo 2016, presentato oggi a Roma dalla Fondazione Migrantes, e come avete sentito sono 107.529 connazionali espatriati nel 2015 rispetto all'anno precedente a iscriversi all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, che è l'AIRE, sono state 6.232 persone in più, per un incremento del 6,2%. Hanno fatto le valigie soprattutto i giovani tra i 18 e i 34 anni. Ne parliamo col nostro Sergio Nava. Tra l'altro Sergio ha un programma tutti i sabati alle 13:30 che si chiama Giovani Talenti, e sa bene di cosa parliamo. Esatto, no, perché noi è da 6 anni che in realtà diciamo che parecchi giovani italiani lasciano il paese, quindi non ci stupiscono questi dati. Sapevi da tempo, ecco, lo racconti, tutti sanno. In più diciamo anche una cosa, le cifre che stiamo dando, che hai dato anche tu Roberta, andrebbero raddoppiate, perché anzi potremmo generosamente raddoppiarle, forse anche qualcosa di più, perché quando diciamo 100.000 sono almeno 200.000 e probabilmente anche di più. Quello che che sta cambiando, noi in realtà questi dati li avevamo forniti già a marzo in trasmissione anche sul Sole 24 Ore, quello che cambia, che sta cambiando, è la composizione di questi flussi. Per la prima volta i 20-40enni, la fascia 20-40enni è maggioranza. Negli ultimi 10 anni è la prima volta che sono al 54%, così abbiamo raccontato noi a Giovani Talenti. Oggi la Fondazione Migrantes aggiunge un dettaglio in più: se andiamo a prendere la fascia 18-34 anni, scopriamo che sono il 36%, quindi più di uno su tre. E questa è la vera scommessa, la vera sfida. Insomma, c'è un elemento sicuramente positivo, ed il fatto che i nostri giovani viaggiano, si muovono, probabilmente più per necessità che per scelta. Ma sono, Sergio, quelli più preparati in genere o tutti i giovani, insomma, chi cerca proprio di fortuna? Nello scorso decennio probabilmente erano più quelli preparati, con un titolo di studio, una laurea, eccetera. Adesso, da qualche anno, non possiamo più, secondo me, fare questa distinzione. È in crescita il tasso, la percentuale di laureati, perché questo è un paese che continua a offrire poche opportunità di lavoro, poche opportunità di impiego per chi ha un'alta qualificazione. Aveva ragione l'ascoltatore che dice manca la meritocrazia anche ma in Italia. Chiaro, ma è evidente, insomma, che adesso non viviamo nel paese dei balocchi. Questo è un paese che si trascina dietro un retaggio di raccomandazioni che è impressionante da terzo mondo. Su questo sono completamente d'accordo con l'ascoltatore. Stiamo cambiando, ma la nostra cultura purtroppo è ancora molto molto poco meritocratica. Io ho anche un appunto da fare a quello che ha detto il Premier Matteo Renzi, che ha detto delle cose giustissime. Però allora Matteo Renzi, e questa è la domanda che gli pongo da questi microfoni, ci dovrebbe spiegare... Che lui ci ascolta sempre, devo dire, qui effetto note. Ci dovrebbe spiegare una cosa, perché lo scorso anno ha di fatto, col suo governo, abolito la legge contro esodo 238/10, che aveva cercato in qualche modo, non l'ho fatta io, quindi non ho niente da... Però aveva cercato in qualche modo di dare uno standard di incentivi a chi tornava in Italia, l'ha di fatto abolita, perché ora ci rientra solo chi è tornato in Italia entro il 2015 e ne beneficerà fino al 2017, ma chi torna oggi non più, e l'ha sostituita con un articolo, articolo 16, dentro il decreto 147, che è molto più oscuro, molto meno conosciuto, ancora meno conosciuto della legge contro esodo. Tutta questa operazione è fatta, posso capire che era una legge varata dal governo Letta e i rapporti Renzi-Letta non siano dei migliori, ma tutto questo fatto senza misurarne i reali benefici, perché poi, come ci insegna una ricerca del Forum della Meritocrazia, quella legge avrebbe portato 500 milioni di euro in più di PIL, avrebbe fatto rientrare alte professionalità e avrebbe comunque inciso positivamente, secondo questo studio del Forum della Meritocrazia. Quindi i messaggi, le parole e anche diverse misure che questo governo sta facendo vanno assolutamente benissimo, però certi segnali, quando parliamo di far attrarre i nostri giovani, di farli tornare, allora poi dobbiamo misurare le parole con i fatti. Giusto Sergio, chiudo con questo messaggio di questo ascoltatore, messaggi tra la pagina di Effetto Note, il 349-238-6666, dice: io sono stato in realtà incoraggiato da giovani talenti ad andar via, quindi per colpa del tuo programma del sabato, e dice: mi faceva troppa tristezza rimanere a lottare contro un paese di vecchi, triste, ma c'è poco da fare purtroppo, dice l'ascoltatore. E con questo Sergio, vi rimando io lo suo saluto programma. Chiaramente e sono contento in qualche modo di averlo ispirato a fare una scelta che probabilmente l'ha reso anche felice, anche se di tristezza, quello che tutti penso sogniamo è un paese come l'Italia che diventi attrattore di talenti, perché crea occupazione, crea lavoro e produce, se vogliamo, tra virgolette, anche meritocrazia. Grazie Sergio Nava, ciao Sergio. Ciao. Ora invece cambiamo argomento, vi raccontavo ieri tra le molte notizie di questa vicenda molto triste, molto ingiusta, molto dolorosa di la morte di un uomo malato di tumore avvenuta, come ha scritto il figlio in una lettera alla ministra Lorenzin, avvenuta nella corsia di un pronto soccorso in mezzo all'indifferenza generale. E il giorno dopo, oggi, Cittadinanza Attiva e Società Italiana di Medicina di Emergenza e Urgenza hanno presentato un rapporto, un monitoraggio che si intitola Lo Stato di Salute dei Pronto Soccorso Italiani, e ci sono, diciamo, luci e ombre, perché un italiano su due sembrerebbe soddisfatto del servizio fornito dal pronto soccorso, però ci sono delle situazioni limite, per esempio registrate all'ospedale Santa Marta e Santa Venera da Cireale vicino a Catania, con delle situazioni dove addirittura si aspettano 7 giorni per essere, diciamo, soccorsi. Ne parliamo con Sabrina Nardi, che è vice coordinatrice del Tribunale dei Diritti del Malato Cittadinanza Attiva. Buonasera Nardi. Buonasera a voi. Quindi, dicevo, luci e ombre, forse più ombre, ci sono molte criticità per quanto riguarda il pronto soccorso in Italia, soprattutto in certe zone. Diciamo che ci sono cose che vanno bene e cose che vanno male. Il caso limite di cui parlava, 7 giorni per avere un posto letto, quindi per arrivare al completamento del percorso avviato in pronto soccorso, sicuramente è un'ombra, però ci sono anche dei luoghi in cui non si aspetta così tanto, si aspetta 2 ore per avere un trasferimento in reparto, quindi è una situazione molto variegata, molto diversa sul territorio nazionale, che cambia a seconda della organizzazione dei servizi, che cambia anche a seconda del momento e degli afflussi che hanno il pronto soccorso, ma che in realtà comunque mostra, dalle interviste anche che abbiamo fatto alle persone che erano lì o in attesa del ricovero o che erano in attesa della visita o i familiari, mostrano comunque una cosa fondamentale, che il pronto soccorso rappresenta ancora oggi un punto di riferimento irrinunciabile per i cittadini nei confronti dei quali nutrono fiducia. Però è necessario investirci, migliorarlo per renderlo più accessibile e più umano. Quello che è accaduto alla persona che attendeva 7 giorni per avere un posto letto, la storia terribile che ha mosso le coscienze di tutti al San Camillo, non devono succedere. Se succede anche solo a una persona, significa che c'è qualcosa che non va. E quello che dobbiamo fare oggi è cambiare per tutti lo stato dell'arte, a partire dal rispetto delle leggi, perché se oggi noi rispettassimo le leggi, questo non accadrebbe. Le persone alla fine della vita avrebbero degli spazi anche al pronto soccorso per trascorrerli vicino ai familiari e senza tutto quello stress e nell'indifferenza anche delle persone che sono familiari al pronto soccorso. Nardi, forse si sta muovendo, perché sento venire andare adesso proprio nelle ultime parole. Comunque, dicevamo, ci sono queste situazioni limite, per esempio quello che citavo all'ospedale Santa Maria e Santa Venere di Acireale, di cui si parla appunto 7 giorni di attesa, anche per esempio al Policlinico Tor Vergata a Roma, però invece esempi di eccellenza l'ospedale di Dolo, Venezia. Esatto, lì si aspetta 2 ore per avere il posto letto in reparto. Dobbiamo dire che le situazioni limite che abbiamo verificato erano delle situazioni nelle quali c'era un sovraffollamento del pronto soccorso, parliamo anche di più di 30 posti letto, barelle aggiunte nell'osservazione breve, già c'erano 48 persone in osservazione breve in attesa o di chiudere il percorso o di andare in reparto. Questo è evidente, crea disagio tantissimo alle persone che sono lì, perché gli spazi diventano al limite, stressa molto anche il personale sanitario, Se noi oggi avessimo le dotazioni che servono, cioè rispettassimo il decreto 70 che dice che tutti i pronto soccorso devono avere un'osservazione breve e intensiva, quindi dei posti letto, in realtà una due interlato. Nardi, siccome è interessante quello che dice, se trova un momento, una posizione per concludere. Prego, sì, stava parlando di dotazioni. Ok, mi sentite? Ora sì, non si muova da lì. Ok, c'è bisogno quindi di applicare una legge, un decreto ministeriale del 2015 che dice che ci devono essere posti letto in osservazione breve in tutti i pronto soccorso, da quelli più piccoli a quelli più grandi, ma c'è anche bisogno, per evitare queste situazioni limite, di una migliore e più trasparente gestione dei posti letto, perché oggi il personale che è in pronto soccorso in un caso su due non sa se ci sono posti letto disponibili e quindi non può procedere al trasferimento in reparto. Questo non può e non deve succedere. E poi ci devono essere quegli accorgimenti, le cose che si danno per scontate ma che scontate non sono, dall'informazione al paziente e al familiare che non viene spesso data, giusto, e non ci sono giusto. Procedure. Il rispetto della riservatezza e della privacy, una persona su tre ha detto che sì, tutto sommato l'assistenza sanitaria è stata buona, sono soddisfatti, ma che la privacy non è stata poi così rispettata. Ecco, questo non può e non deve accadere. Per il rispetto sia delle persone che sono malate e che si fidano del pronto soccorso, ma anche degli operatori che lì vivono tutti i giorni e si fanno in quattro per cercare di dare il miglior servizio possibile. E mi sembra che con un minimo sforzo queste cose che lei elencava si possano raggiungere senza troppi problemi. Grazie dottoressa Sabrina Nardi. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi. Cittadinanza attiva. Ora vedo un'agenzia di Grillo, che Grillo raggi ordigno in casa di un collaboratore della giunta, lo annunciamo in un post sul blog, diamo fastidio a qualcuno. Un innesco di ordigno è stato trovato nell'abitazione di un collaboratore della giunta Movimento 5 Stelle a Roma, lo annuncia in un post sul blog Beppe Grillo a firma del leader 5 Stelle e della sindaca di Roma Virginia Raggi. Si tratta di un messaggio che le forze dell'ordine dicono, alle quali va in un ringraziamento per il lavoro svolto con serietà e discrezione. Bene, possiamo lasciarci, tanto ci ritroviamo tra pochissimo. Tecnologie logistiche di magazzino Modul Block. Avanti anni luce. Vi presenta Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Vedo molti messaggi sulla questione degli italiani che fuggono all'estero, la ragione della fuga all'estero per me è che sono stanchi di assistere a liti quotidiane che non sortiscono effetto, forse altrove dopo le liti si cambia. Questo i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Valerio da Roma, i giovani italiani che vanno a lavorare all'estero contano su lauree apprezzate, mentre qui si parla male delle nostre università. Il problema non sono solo l'università ma il rapporto con il mondo del lavoro, è quello che si continua a ripetere. Però, a proposito del posto giusto, al momento giusto, ho visto Roberto Bolle lì in campo a Torino ad assistere alla nazionale che è lì per una partita contro la Spagna per qualificarsi ai mondiali. Ne è vero Dario Ricci? C'è il divino Bolle. Ma questo me lo dici te, lo do per certo, sì, perché qua siamo talmente preoccupati per come sta andando la partita, come perché siamo sullo 0-0 nell'intervallo tra Italia e Spagna, ma insomma la palla ce l'hanno sempre loro e questo è abbastanza preoccupante. Hanno avuto anche un paio di buone occasioni gli spagnoli con due colpi di testa di Piqué, fortunatamente deboli e centrali e quindi non in grado di impensierire l'attento Buffon, ma insomma c'è sicuramente un predominio territoriale da parte degli iberici confermato anche dai 9 angoli a 0 battuti dalla squadra di Lopetegui. Azzurri che hanno creato ben poco, anzi nulla, e che alla mezz'ora hanno perso per infortunio anche Montolivo, al suo posto è entrato Bonaventura. Anche la Spagna però in precedenza aveva avuto un infortunato, Jordi Alba, il terzino del Barcellona, sostituito dal madridista Nacho. Insomma, finora 0-0, ma molta più Spagna che Italia. Speriamo davvero in un secondo tempo diverso e molto più azzurro, cara Roberta. Ci dirai, caro Dario Ricci da Torino, grazie. Intanto vi ricordo quali sono le notizie più importanti, poi passiamo al prossimo tema. Flessibilità, l'Unione Europea apre alle richieste dell'Italia su migranti e sisma. Il commissario Moscovici dice contro la minaccia populista a sostegno a Renzi. L'uragano Matthew, Haiti in ginocchio, si mobilita anche l'Unione Europea. Obama dichiara lo stato d'emergenza in Florida, ne parleremo tra pochissimo. Siria, allarme dell'organizzazione umanitaria Oxfam, dice Aleppo muore senza acqua, 1,5 milioni di civili, forte rischio di malattie per acqua contaminata. La politica italiana, completata la giunta romana a 5 Stelle e Renzi a Torino ribadisce il referendum è l'ultima occasione per cambiare il paese. Rapporto migranti, se sempre più italiani lasciano il bel paese per cercare fortuna all'estero, specie in Germania, un terzo sono giovani. Aggressioni con l'acido, tolto il figlio alla coppia condannata, il Tribunale per i minori di Milano ne ha dichiarato lo stato di adottabilità. Lite in una scuola media, 13enne accoltellato a Napoli da un compagno di classe. Per la musica, i Rolling Stones in uscita il 2 dicembre con un nuovo disco dopo 10 anni. Ora ci colleghiamo, vi dicevo, direttamente con gli Stati Uniti, dove c'è il nostro Marco Valsani del Sole 24 Ore. Marco, buonasera. Allora, l'uragano Matthew sta facendo parecchio paura. Intanto ha colpito un paese come Haiti, che già era in una situazione di devastazione, di povertà, di estrema difficoltà per il terribile terremoto che c'era stato nel 2010, no? Quindi ha colpito, certo, ha colpito Haiti, addirittura l'UNICEF parla di uno scenario catastrofico, apocalittico, e poi adesso sta raggiungendo la Florida, Marco. Sì, a questo punto si è diretto dopo aver appunto colpito Cuba e soprattutto Haiti, ha raggiunto le Bahamas e a questo punto si sta dirigendo verso la Florida, una cosa che non accadeva da oltre 10 anni. Mm. Le previsioni danno un arrivo dell'uragano nel sud della Florida, quindi vicino a Miami, a West Palm Beach. Vedo adesso che chiudono i parchi Disney, c'è un'agenzia che chiudono i parchi Disney, beh, è il minimo, esatto, insomma, no? Sì, perché poi, esatto, l'uragano dovrebbe rimanere a forza 4, quindi con venti da oltre 140 miglia all'ora e con mareggiate di tra i 2 e i 3 metri, rimanere con questa forza lungo tutta la costa della Florida fino ad arrivare a Jacksonville, quindi compresa Orlando, che è dove c'è Disney. Marco, mi pare che siano state allertate 8 milioni di persone addirittura. Per sì, la Florida ha 8 milioni di, diciamo, in Florida, quindi 8 tutti, milioni di abitanti della Florida sono nel percorso, lungo il percorso dell'uragano. È stata ordinata l'evacuazione di almeno 1,5 milioni di residenti, altro 500,000 di residenti vengono evacuati da South Carolina, altro stato che verrà colpito dall'uragano, e alcune altre centinaia di migliaia anche in Georgia, che a sua volta è il terzo stato, diciamo, americano che verrà colpito da Matthew, con però appunto, come ricordavi all'inizio, il presidente Obama che ha dichiarato lo stato d'emergenza in Florida, che comunque è lo stato che risentirà di più delle devastazioni. Marco, fra l'altro vedevo che l'Unione Europea si sta mobilitando per Haiti, no? Attivando il meccanismo di protezione civile per fornire assistenza, sbloccando i primi 225,000 euro di aiuti per far fronte all'emergenza umanitaria. Le prime offerte, mezzi, strumenti, esperti sono arrivate da Danimarca, Francia, Svezia, Gran Bretagna e Romania, e poi anche la direttrice generale del Fondo Monetario Internazionale, Christine Lagarde, ha assicurato che il fondo è pronto ad aiutare i paesi colpiti. Senti, lì in Florida ovviamente non sono Haiti, possono predisporre un piano di certo, prevenzione, di evacuazione abbastanza organizzato? Sono pronti, insomma? Sì, diciamo che i preparativi sono, diciamo, in corso ormai da giorni. Il rischio principale per la Florida, per gli Stati Uniti, è quello di sottovalutare il pericolo dell'uragano. Infatti, diciamo, il focus di Obama, dei governatori locali, cioè, è stato quello proprio di allarmare la popolazione, di dire: guardate, questo è un uragano serio, ha detto Obama, e va preso seriamente. Il rischio appunto che la gente non si sposti in tempo, non evacui in tempo, venga colta, diciamo, dall'uragano mentre magari si trova per strada, e quindi i rischi per la vita umana, per le vite umane, per perdite di vite umane, a quel punto alto, aumenta. Ecco, quello è il principale, sicuramente, pericolo, rischio, oltre poi ai danni economici, che però chiaramente, diciamo, sono problema, certo, inferiore. E infatti anche il governatore della Florida, ho visto, che dice: scappate o vi ucciderà. Grazie Marco Valsani dagli Stati Uniti. Ciao, buon lavoro, Marco. A voi, grazie a voi. Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti.

Ma siamo al quarto del secondo tempo, ha appena ammonito Parolo per un fallo su Koke, siamo ancora sullo 0-0, la musica non sembra essere cambiata, ti confesso, nel senso che il boccino ce l'avevano loro nel primo tempo e anche in questo inizio di ripresa sono decisamente gli spagnoli a fare la partita, tant'è che in 4 minuti hanno già battuto altri 2 calci d'angolo. Proviamo a recuperare il pallone senza particolare successo, ora è De Sciglio che con un contrasto riesce a conquistare quantomeno un fallo laterale all'altezza del centrocampo. Azzurri che stanno facendo parecchia fatica, si aggrappano a Bonucci, Barzagli e Romagnoli, finora il terzetto difensivo ha ben tenuto di fronte al palleggio di ottima qualità da parte degli iberici. Come ricordavamo prima, non abbiamo corso troppi pericoli, un paio di colpi di testa di Piqué, un'incursione di Diego Costa, ma abbiamo prodotto davvero poco. Vediamo adesso se Bonaventura riesce ad accendere lo Juventus Stadium, appoggia sulla sinistra per De Sciglio che allunga ancora per Bonaventura che viene però anticipato da Piqué e conquistiamo un fallo laterale ancora. Stiamo provando un pochino a prendere fiato e a farci vedere dalle parti di De Gea, il portiere spagnolo che finora non si è neanche sporcato i guanti, cara Roberta. Senti Dario, tra l'altro c'era l'allenatore Ventura che mi pare l'altro ieri avesse detto sì è importante ma non così importante questa partita, aveva messo le mani avanti o effettivamente non è così decisiva? Che è un po' il gioco delle parti, in realtà questa è partita già fondamentale perché la Spagna è la nostra principale avversaria in questo girone che vede in campo stasera Liechtenstein ed Albania, con l'Albania in vantaggio, e Macedonia e Israele, con Israele appunto in vantaggio contro quelli che saranno i nostri prossimi avversari domenica. Insomma, già con tutto il rispetto, già i nomi dei nostri avversari ci fanno capire che è con gli spagnoli che ci giochiamo il primo posto, che è quello che qualifica direttamente a Russia 2018. Chi arriva secondo dovrà passare per i playoff e allora a quel punto ti giochi la qualificazione in uno scontro andata e ritorno con un'altra avversaria quantomeno temibile. Aspetta, ti racconto il contropiede della Spagna che prova a farsi avanti dalle parti di Buffon e ora Silva, il fantasista del Manchester City, a gestire il pallone, appoggia Iniesta sulla destra, ora sale Carvajal, ma la difesa azzurra sembra essersi riposizionata. Ancora la Spagna avanti con Vitolo, il cross al centro, bravo Romagnoli anche in questa occasione, molto buono l'esordio del milanista nello sventare il pericolo. Ora Pellè appoggia per De Rossi, De Sciglio, anzi Bonaventura a difendere la palla sulla fascia, ancora Romagnoli. Bene. Vediamo un po' se riusciamo a liberare. Sì. Vediamo un po' se riusciamo a liberare. Dario, ci dobbiamo qui lasciare, vediamo se recuperano il pallone. Sì, però il campo è lungo, devono arrivare dall'altra parte. Grazie Dario Ricci da Torino, ci aggiorniamo alle 22.